odio gli unidi slow. Preferisco le scarpe già usate. In passato hanno preso altre strade. Sono quello che so, non lo so se è un difetto o no. Parlo poco ma sono bilingue. Cerco un uomo ma l'uomo si estingue. Ma il fuoco no, le pietre no, le foto no, i giorni no, l'amore no, magari è troppo. Voglio una vita col fuso orario, voglio sbagliare binario. Voglio un'amica che mi dica che fare e fare tutto il contrario. Voglio la fede dei marinai, voglio il coraggio dei santi. Voglio mia nonna con il rosario, poi vorrei fare tutto il contrario. Quanto odio nel traffico, nella testa ho gli unidi slow. Mi piace parlare alle stelle, sanno tenere un segreto per sempre. Ho un problema con me, prima o poi capirò cos'è. Questo stato di calma apparente che svanisce col drink delle sette. Ma il fuoco no, le pietre no, le foto no, i giorni no, l'amore no, magari è troppo. Suo confine, vorrei tatuarmi qualcosa, ma ho paura di cambiare idea.